Ah, ma ti un bel scarica. Sì, ma si sa che non funziona. No, no, beh, non lo va qua, si va, qui si va. Allora, fagli quello che avevo detto tu. Cosa vuoi dire di fare? Quando è dentro poco fermo la batteria, si addormenta, la diva dell'elettroshock. Ci può prova. Fagli un paio di colpi a 12 volte. Lo vedi. Se vedi che era? Ah, più o meno dici dal compagno con i due portali di bussi. Ma, sì, sì, sì. Fagli l'elettroshock. Tra voi io gli ho dimostrato il tuo cardiogramma, come ci funziona. Ma prendono più carica perché non hanno proprio niente, quindi mi sembra che gli si blocca un coso all'interno. Tu quando gli dai un paio di colpi di coso, lui ci scende, là. È un po' di scariche di elettricità. Io ti dico l'elettroshock, là. Qua c'è un alimentatore, così ti una persona con la bella abbassata. Ma gli devi appoggiare, mi devi fare ti, proprio un colpo, che quando quello ogni tanto lo metti nel telefono e vedi che se ti ha preso una tacchetta vuol dire che sei svegliata. Ma tu la dolici? A dolici, ma se io non glielo lasci fissa, la brucia la batteria, devi trovare un po' di colpi. Ma io sono casino, mi abbatto. Da diavolo. Vai. Guarda se glielo faccio, va. Vediamo un po' se fa. E quindi qua. C'è un'altra batteria, non so che cazzo c'è un'altra batteria, no? Ma ti sono più tanti i telefoni, so che dobbiamo metterli a posto. Ma quanti ne ha? Sì, già ne ho, c'ho questi Nokia, piccola sono più liberi. Ma partì col modello qual è? Il Nokia... C'è 33... 45, non mi ritrovo, uno è piccolini, bianco e nero. Quindi, se ne avevo recupero, anche avevo il disperato, non mi frega niente. Però me l'ha dato tutto uno, se non sbaglio. Ma a me stava brutto. Eia, era giallino e nero in Bari. C'era la figlia, no, non stiamo più ritirando quella roba, se no te l'avrei dato. È grigio. Se non è stata qua a posto, ma non lo posso dare anche a Claudio, capito? Pulitivo, va, io sono ricordo, io mi tenevo quelli di là per collezione e ce l'ho qua e basta, tutti questi poi te l'avevo dati a te perché non avevamo più ritirato. Poi chiappa. Allora, se ti capita magari fa sapere. Poi chiamarà giù io. Anche mia cognata c'ha un penultimo occhio, quello che è uscito, quello che si apre in due. Che mi si è rotto il display, lo stesso ho detto, guarda, non stiamo più ritirando e non c'è niente, non c'è più niente. Chiappa. Vabbè, se ti dovesse capitare non c'è problema, lo faccio sapere. Mi rubai i sabbi. Claudio Spardiero, buonasera. Già la prova con Luigi. schifo, mascamo. Partito Girone non lo conosci. Tutto gli attacchi nuovi, il cappetto nuovo, tutto nuovo. Ah, positivo, ma ce l'hai tu, Gradio? Oggi ce l'hai. Ce l'ho io ce l'ho. Ma là, stamattina sei andato giù? Perché sì, sono sceso a Pagotano a fare la commissione, poi ho chiamato Luigi, mi ha detto che era lì e sono passato da lui. Ci abbiamo preso un caffè, due chiacchiere, abbiamo provato col microfono e poi sono salito a casa. Sono stati punti a portare il telefono a Pagotano e mi sono visto con Mago. Sono rimasto un pochino con Mago, poi sono salito a casa. E tu ieri? No, io ero giù in campagna, dai. Ci hanno invitato gli amici in campagna, eravamo giù in campagna. Io non mi vedo, volevo in campagna. No, non sto uscendo sabato sera, sabato non sono uscito a lavorare. Sono venuto a casa, mi sono cambiato, ho lavorato, sono andato subito a Banchiari. Dicevo, ragazzi, mi stavano aspettando, c'è la partita, abbiamo vinto 3-1. Contro la squadra, questa full time di Cosimo Salis. Adesso sabato prossimo alle 3:30 giochiamo qua al campo della Tenorci. Comunque ho visto la mala squadra, i ragazzi sono tutti a posto, però adesso iniziamo a combattere. Ecco, adesso la prossima partita ce l'avete sabato alla Tenorci. Sì, prossima partita siamo qua nel campo della Tenorci. Alle 3:30 però non alle 3. Alle 3:30 come arbitrare Antonio Caggio. Fateci passo domani e do a tutti i certificati medici. Non fatti male, non avanti, ho trovato tutto stasera, sono tutti a posto. Non mancavo non lavorare domani. Mi ha appena ritiro il certificato, vado di riposo Antonio, perché altrimenti non mi fa giocare. Ci vedo sabato per la partita, se è lì a... va il campetto coso, ai passettini, credo. Io. Adesso mi faccio io a prendere, non c'è problema, ci rimani con me in campo. Rimani con me vicino alla mia panchina. No, io ci vedo, sono curioso di vedere questa nuova squadra, come si comporta. Inizio a vicino, va bene, il campionato, stiamo facendo questi amichevoli per conoscerci, ma... No, io ho detto arrivare, ah, ma provo da qua, andiamo da qua. Io sono un giocatore che non conosce nemmeno. Praticamente mi sono stati contattati, là, mi hanno dato i nominativi, io li ho contattati, mi hanno dato quello di sportissimo, qualcuno l'ha preso da entrare in Gianamoli, alla e altri che mi hanno dato direttamente a Wendas, e quindi la buona parte di quella gente si gioca a pallone grande, non è una squadra vicina. Scusate che ne ho due che giocano, uno gioca in eccellenza, due giocano in prima categoria. E allora, penso che sia per nessuno lo vale. Ma che ha fatto uomo, visto Pila, che si gioca in prima categoria, visto una riga, è partito da centrocampo. Ha fatto un cambio, ma solo uno scambio, poi c'era un vento, ha fatto un vento da Bancari, guarda, non si poteva stare. Ha fatto uno scambio così, dopo la metà campo, con due cambiste, la volivaria, le croce del pari, Mancuisa. No, bravi, sono bravi. Ma ti sta giocando anche quello di salvare via Pascoli? Lui è che dovevo giocare, prima gioca con l'Ardara. Ma non gioca con l'Ardara, no, ma ho giocato anche Siri e Dimmi. Ma mi sono giocatore, ha segnato lui ieri, lui ha segnato lui. Molto bello, l'abbiamo trovato, questo va da fuori aria, da fuori l'aria del rigore, ma era già un 25-30 metri. E invece l'altro obiezione sulla fascia destra, sempre all'incrocio del palco, un pallonetto quasi dentro l'aria là. Grazie che girarsi, ha dato un pallonetto, un bel gol. Ha cambiato direttamente il piede a destra e a sinistra, vedi la cotturetta. solo che ha rivelato il materiale, come la nostra, visto che ha fatto tutto il materiale, posso far giocare anche chi è già pesato. Un'altra squadra di prima, seconda, terza categoria, Barcellona sia eccellenza, capito? Siccome noi siamo in seconda divisione. Però lo scrivo di prima divisione, invece per paura, quindi è scritto in seconda divisione. Adesso vediamo se vinciamo il campionato, andiamo in prima divisione e poi si vedrà. Si vedrà, allora comincio a fare il calcio mercato e divento come Moratti. Bene, va. Benissimo, benissimo al 100%. Io sarò il tuo braccio destro e non ce n'è per nessuno. No, fa tutto, Giulio, ricordi, vabbè. Ciao, vabbè, ma non si sarebbe sentito. Cos'è qua? La torre sta fraggiato. 3-2-2. Vabbè. Va bene. Se vedi in tribuna tutto l'inghiere, no? Ma io qua abbiamo fatto i miei colleghi. A risparmio, cioè una cosa allucinante, a risparmio con diluente. Il comune ti aveva la roba contata, arrivava un metro di carta per tratta, ci arrivava a Buru, quanti rendi conto qua? Tanto mi sono imboscato un giovane tra, ui. Non è stato difficile. Poi diluente, ma gli aveva la bambina 5 litri, no? Ma gli aveva un riservo, no? Diluire pure i pennelli. I pennelli, la monnetta. La monnetta qua. Non so, funziona così. Funziona così. Vabbè, vinto abbiamo 3-1 ieri. Adesso giochiamo sabato qua al campionato Rossi. Ma sai qual era quella squadra che abbiamo giocato con il Cosimo Salis, il full time? Perché Cosimo sta giocando a pallone? Allora, non è vero. Ma l'avevo capovolto, l'ho fatto a pezzi. 3-9 miliardi, 3-1 abbiamo vinto. Ma già risolto il campionato, non c'è? Hai già risolto il campionato qua? Ogni sabato si inizia il campionato, lo facciamo una, un po' per conoscerci, ma mi hanno già detto ieri, ma il tuo conto è qua voi, non lo apro qua. E chi ha premiato dei vostri? L'ho segnato, lui l'ha segnato Ramo, gioca con Rada, io l'ho segnato, come si chiama, l'altro fratello Gianfranco, che gioca col Tempio. Gianfranco, Alessandro? Forse col Tempio, che giocava con Almeno. E da qua copriamo il fratello di Adamo. Gianfranco, Adamo, Alessandro e Luca sono quattro, tutti e quattro giocano a pallone. I fratelli Piras giocano tutti e quattro a pallone. No, lo riconosco bene, ma non sapevo che Gianfranco fosse avvero, non sapevo che giocasse, che fosse il fratello di cosa, di Alessandro e di Adamo. Proprio non mi è mai venuto in mente. Adesso pensandoci è possibile. Tutte e due ce li ho io. Tutte e due. Ma signore, due avevo di Gianfranco. Ma il gol però me, non ho vicino. È una bella squadra, ma non già niente, c'è cioè, è favorita, è favorita. Mi ha portato a due lire oggi di un buffo niente, sai, io sono partito fuori, ho preso giocatori buoni, voi ci avete i giocatori bruni. E lì c'è la Cosimo, sono tutti i cibalardi, vai, vieni, vai. No, lo conosco bene, lui sta dando la salsa di così. Dimmi una cosa, ma questi stanno giocando con voi, Gianfranco e Adamo, o sono così per l'amichevole, non possono giocare in campionato qui? Che c'è un formatore che non possono giocare, mica c'è il tesoro del Figicino. Sì, ma se quelli stanno già giocando in campionato FGC, non possono essere tesserati nel torneo, cos'è Endas mi ha detto? Sono liberi di avere, non hanno sì, perché quest'anno non gioca con Andra, non gioca, mentre Gianfranco è impegnato, ma c'è anche Alessandro sta giocando, anche Alessandro è fermo, un po' più cicciottello, l'unico duello è Gianfranco, ma Alessandro c'è la pezza di Alam, comunque Gurri di tutti e tre, vabbè, Gianfranco sì. Ma vanno Alessandro che tu cambiano un bene. Ma già fatto il forza avrile, ancora in piena forma, quelli sono granditi, Adamo e Alessandro sono grandi ormai. Alessandro dovrebbe essere 65, Adamo più o meno la matrice età, Gianfranco sarà intorno al 70 di età, del 71, 72, ma Gianfranco era giocato anche in Serie D sino a poco tempo fa. Perché le due stelle l'ha fatto un calcio col capo. È partito. Abbiamo fatto il primo gol, il secondo su azione lo stesso, proprio partendo dal centrocampo, ho fatto due cambi con due passaggi col fratello, poi ha aperto sulla fascia, è partito dalla fascia, proprio dalla fascia all'angolo, ha avuto il cuginico, ha rifiuto il timer, ha inconvisto dal portiere. E allora sono furti, solo che Per porto del sud non possono giocare in Enna, anche se amatoriale le danno le partite perse, attenzione, se loro hanno fatto una partita, siccome è già capitato, io ho degli amici che fanno il torneo Enna, sono venuti a chiedere di informazioni di altri giocatori che giocavano in altre squadre, nel torneo FGC diciamo, e hanno dato le partite perse perché hanno fatto giocare gente che gioca in FGC, basta che fai un minuto di partita, già una partita persa. Sono amichevoli, quindi come avevo chiesto Antonio Caggio, ma tu ci sono problemi. Avevo in casa anche Sergio Antonio, non può giocare, però gioca, cioè avevamo Alessandro, poi gli altri buonissimi che hanno sempre fatto questi tornei Endas, perché non sono affiliati a FGC, quindi possono giocare tranquillamente. Se non facciamo un calcio mancato, vi faccio un giro. Vediamo se c'è qualcuno, ma adesso domani ci abbiamo la riunione, domani mattina vado anche in banca con la lama a aprire il conto, perché devo subito preparare con la cartina per il rimborso spese. Cioè, un lotto, quanto trasporto e fuori ci abbiamo, e chi si va a recuperare? Cappa, avanti Luca. Sì, vabbè, ma si fanno piano piano. Piano piano. E tu come hai iniziato? No, il 18 inizia il campionato moto. Ah, io Claudio ti sento più bombardato dall'altro giorno, ma cosa è cambiato l'apparato? Sono infatti più bombardato, abbassa un po' qua. Io non ho toccato niente, bombardato uscio. Sto andando con le 4.30. Adesso più basso. Ma non è che sia ancora rauco, no? Forse la voce è troppo grossa a me. No, a me non va bene, anzi, appena bassino c'è rispetto a Luca. Però ti sento un bel grosso di voce. Quello non dite, ma allora io mi sono messo a abbassare. Non mi fate abbassare, sono rauco. Rauco giù il gioco. Sono sempre molto nasolare. Sono rauco, voce grossa e non sto fumando, mi devo farmi un po' giù uscire un po' anche. No, fatemi se vado a fare perché... Io non so come niente, non sto salendo e scendendo, una volta che la radio regolata va bene così, quindi è solo questione di timbre. Va bene, non c'è problema, avanti Luca. Ti ho trovato un sito, a Luca pure lo dico, vabbè a te Claudio già c'è la tentatura per sentire. Ce l'hai tu internet a portata di mano? Questo sito qua, www.radioamatorisicilia.it. Ma cosa senti, dimmi? No, perché noi abbiamo quello là, il puntino nostro, www.radioamatorisicilia.it, apri la pagina dove c'è scritto link, clicchi e senti 40 metri, 80 metri, 20 metri, 10 metri, senti tutti gli allenatori con tutte le bande al computer nella pagina proprio dove puoi. C'è il segnale che la radio, vedi anche lo smitter che si muove tutto, senti tutti gli allenatori. Sì, questo ce ne sono, le HF più c'ha l'allenatore di spettro con tutti i tipi di modulazioni, tipo guarda, c'ha una marea di modulazioni che neanche conoscevo, tipi di modulazioni e ci sono tutte le bande HF, da 0 a 30. E stavo provando ad ascoltare micidiale, ti sposti con il cursore, li puoi portare a frequenza, tutto quello che vuoi. E c'è l'allenatore di spettro, ci sono tutte le bande funzionanti, per dire tu vuoi vedere la banda da 1300 a 1500. Controlli e ti vedi tutte le portanti e ti selezioni dove vuoi andare e poi ti puoi tutti i tipi di modulazione, ma non sapevo neanche di essere la banda laterale inferiore stretta e larga, io conoscevo solo la banda laterale inferiore, l'LSB normale, qua ce ne sono tutti i tipi di emissione. Qui sono in Sicilia, come qua per il sito di Sassari, associazione dell'attore italiano, di Sassari, sentiamo di Sassari, di Sassari. E c'è la stessa cosa, non è stato fatto da noi, non è siciliano. E ci sono tutte le bande lo stesso. Io a volte manco che accendo la radio, capito? Lascio solo questa, la 27 accesa e poi col computer mi ascolto tutte le bande, perché ce le hai tutte col cursore, ce le hai tutte con la redattore di spettro, tutte col segnale sia di ricezione che di trasmissione. Ma l'altro è bello per il cursore, può anche centrare la banda 67070.50. E come che c'è il monopolone della sintonia continua sulla radio che è disegnata, vai a muovere quello con il mouse e ti bisogna fare questo, per accettare chi sta parlando. È molto bello il sito vostro. No, no, ma questo il sito, sono collegati a questo sito olandese, cioè non è fatto, è bello, fatto bene, perché ci sono un sacco di informazioni, ci sono tutti i punti ripetitori, eccetera, eccetera, un bel roba. Beh. E poi c'è, se ti vuoi ascoltare anche, c'è scritto questo link, ti connetti con questo link e c'è questo affare qua, questo sito olandese, ma te vedi come è fatto bene, tutti i tipi di emissione, ti puoi impostare la frequenza, cioè, e anche tutta la banda delle frequenze, di tutte i 10 metri, 20 metri, 40 metri, 160, tutto, beh. E le V, le bande sono, e in più puoi salire e scendere tipo come fai con la radio della macchina, che digiti, ti apre la frequenza, oppure la puoi piazzare tu e ti fai i passi di 5 Hz, mi sembra, insomma, però ho fatto veramente bene. E poi, ma non capita, ti volevo chiedere un'informazione, ma anche non me la puoi dare adesso, Claudio, di una frequenza. Non so di quale mano parli, meglio di queste cose, ma comunque siccome sì, non è seguito più, io sono l'armatore, sono tenuto a dare informazioni, senza nessun problema. Comunque quello che hai visto tu è uguale, è preciso, identico alla nostra roba, a quello che abbiamo noi nel sito Ari. Ari, però la nostra è italiana, quella olandese, è italiana, l'hanno fatto gli animatori. Capito, è uguale, stesso, la stessa cosa, passi da 5 e tutto. Dimmi cosa vuoi sapere, che frequenza vuoi sapere? No, no, la frequenza non te la sto chiedendo, ma l'hai detto tu quella frequenza dell'altro giorno, che avevi sentito tu. Però non ho capito una cosa, con che ricevitore lo stai ascoltando tu quella frequenza lì, e cosa usi, lo shift? No, facendo il... anche questo. Non c'è problema. Si chiamano quello di BB, è la selettiva, quella seleziona vengono chiamate interne e le distribuisce a chi è in ascolto su quella frequenza. Se su quella frequenza non c'è nessun ascolto, quella selettiva le riparate e le manda su un'altra frequenza. Quindi per quello se tu sei su quella frequenza mi senti la selettiva a chiamare, ma non senti rispondere, perché vuol dire la selettiva ha spostato la chiamata su un'altra frequenza. Non ti preoccupare, tu lascia lì. Ma non parlano già di senti, tanto parlano tutti di lì. Infatti non riesco a capire, però ho pensato che ci fosse uno shift, che loro, per dire, vanno in trasmissione su una cosa, in ricezione sull'altra. No, quello è uno shift della selettiva, che si sposta automaticamente di 10 più e 10 meno. Ricezione e trasmissione, non ha niente a che fare con ricevitori nostri, capito? Perché quelli là sono civili praticamente, sono bande civili con la selettiva a livello di ricerca automatica, quindi se tu non rispondi in quella che ti va a te, cosa fa la selettiva? Chiama, che è quel bivi che tu senti, e sposta la selezione nella chiamata, cosiddetta selettiva, la sposta su un'altra frequenza e lo ricerca automaticamente. E vabbè, già lo vediamo in pratica. Uno di questi giorni te lo mai me lo fai vedere, dai, che vediamo un po'. Sì, guarda, vai, io vado a mangiare. Vado a mangiare, la pastiglia, se lo faccio tardi. Ti faccio accompagnare Luca, se ne prende. E se non ci sentiamo dopo, lo mettiamo su già le 10. Ma c'è la partita, non vengono qua, tanto la guardi. Vabbè. C'è Juve e Cagliari. Vabbè, io sto Mediaset Premium, se c'è Sky puoi guardare anche a Sky. Ah, non è la Sky, sì. E già lo grido. Ieri sera che bella la sconfitta dell'Inter, l'hai vista, l'ultimo minuto ha perso. Non si può dire, vabbè, hanno giocato tutti e due a noi, il Milan ha avuto l'apertura all'ultimo minuto e chiaramente con quel colpo di testa così non sbagli. È schiacciata a terra la palla lì all'angolino dove va la pigliella, e quindi è andata bene per la Roma, è andata male per l'Inter, ma io penso che non sia quello il problema, che l'Inter quest'anno non possa essere la favorita al campionato, nel modo più assoluto. E intanto la Juve guarda, perde oggi con Cagliari, anche se in casa perde con Cagliari, come ha fatto la Palermo, capito? Senza il Palermo che stava perdendo 2-0, che ha pareggiato 2-2. La Lazio, ho capito Torni, la Lazio, è andata fuori casa, ha vinto, ma stai scherzando? Non lo so. Domenica prossima c'è Juve Inter, c'è Inter-Juve, lo sai? Vabbè, c'è Inter-Juve, ce la prendiamo. L'Inter, ti sto dicendo, quest'anno fa un basso di nuovo, una grande squadra, il Milan sta iniziando a salire, adesso che bello ha fatto Ibrahimovic. Quindi oggi, per me il campionato si sa, Inter, Milan, la Roma stavamo tenendo fuori, Inter, Milan, Roma, poi chi c'è? Quelli questi altri che stanno partendo adesso che sono prive, non hanno niente a che fare, vabbè, non capirà loro. E poi vediamo se oggi vince la Juve con Cagliari, ma 7 punti, quindi è già dall'altra parte, ma se continua a rimanere lì è meglio che se ne vada a giocare col sorso. Davvero, vediamo se c'è Luca, dai, tanto tutti andando a mangiare, magari non so, se fai fretta rimango qualche minuto, se no ci sentiamo domani magari, ok, vediamo Luca, sì. Se mi dai il sito, come hai detto, com'era? Io poi mi ha detto Claudio, uguale identico, c'è cioè il radioamatore di Sassari. Comunque quello che ti dico io si chiama www.radioamatorisicilia.it e nella parte bassa della schermo c'è scritto ascolta gli HF, schiacci di lì e micidiale. Ecco qua, www.radioamatorisicilia.it, ok. Ebbene, lo devo cliccare adesso, il primo qua devo cliccare. C'è di sotto, fai scorrere la pagina, c'è disegnato, hai visto c'è la musichetta siciliana. Vabbè, qua non lo cliccare, ce ne sono tanti. Qua c'è la Donatore di Sicilia, nazioni pubbliche e tecniche lanterne di fuoco, la Donatore di Sicilia. La Donatore di Sicilia, boh. Delta Luft 14 ho potuto trovare adesso, se non volevo cliccare. Yeah. sono 20, 40, 80 metri online. Poi c'è stampa QSL, 1, 2, 3, 4, 5. Picca, adesso 80 metri, metti. 80 metri, e ti appoggi, ti appoggi la pagina con la zappa di spesso, e lì muovi il mio osservato, la pagina ti sta parlando come ricevitore. Deve andare col mouse sopra, ci clicchi sopra e poi dove c'è il sito Bandwidth. Dite di mettere che tipo di invece, adesso questa è una M, è una broccanti. Qua c'è Franklin, sarà Google, 180 anni, 40 anni, vediamo un po'. No. Esattamente, sì. Yeah. 80. Io vado a cenare, sono le 9:20, ciao ciao. Ciao, 9:20. incantato. Questa non è una notte e mezza, tra qualche minuto vado a vedere una partita. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci sei. Ciao, ciao, ciao, e anche io mi vado a una partita dopo, ciao, Ma non lo metti solo? E mezza. Infatti c'ho questo orologio qua in radio, mi sta cercando le 8:30, ha detto ma cosa è indietro, e vai a cercare la camera 20. E tu ricevitore ne hai? Non ci facciamo là, lo sai, no? Quello famoso. Quello famoso? Ma quello ricevitore sto parlando, eh? No, ricevitore non ne ho io, non sono apparecchiolando. Io? No, no, pensavo che ci avessi qualche portatilino, quello della gente. Credi che io faccio la pazienza. Vabbè, come prima la più appassionata, adesso non più. Stavo detto, non la chiamo me prima, era tutto accaduto, adesso sì, magari c'è una cosa interessante, ci parlo, ma non più come prima roba. Vabbè, perché io devo essere importante, di fare calcolare, ma e tu, sei diverso come carattere, non te ne frega niente. Capito? E nella città delle sveglie te ne vai, non c'è o no, perché? Non capisco, parlo, dico di parlare, no? Tu cosa ne dici? Già lo so. Allora, mi devo lasciare a però. E cosa, Luca? È quello che fanno vedere la televisione, è quello poker della televisione, hai visto, dai? C'è il canale poker, poker 24 ore, l'ho visto di sfuggita una volta, ma non la gioco preso nulla, come si gioca? E io però, e io sono campione però, vabbè, lo sono un poker virtuale, ti fanno il cavallo lo stesso. Comunque io ho ritrovato del campione e lo voglio proprio vedere, io ci gioco, cioè vabbè, so, forse questo è stato perché ho fatto un paio di volte, un vero campione cosa va in più di un giocatore normale, insomma, se uno sa giocare bene, perché se non vai in gatti tu ci diventi tutta la fortuna, poi la saprebbe fare naturalmente, però se uno fa una partita sola secondo me non esiste il campione. No, no, già mi saprebbe fare anche, non è così, non bello, non saprebbe. In base a quello che hai, quello che c'è in terra, devi fare un giro di punti, ma te lo che prendi il boost, ma guarda ti prende un 3, e tu c'hai un calcolare un Q in mano, per dire, no? E ti fai tutti i giri di calcoli. È un casino, non è facile. Secondo me qua via internet, così. Un po' la rottura, dai. Guarda, io ti dico una cosa, io sfiderei il campione più forte del mondo. Una partita però dobbiamo fare, non 10 partite, se facciamo 10 partite lui ti riesce a capire come giochi. In una partita il più forte campione del mondo non ti può far vedere niente secondo me, e tu non puoi fargli vedere niente a lui. A fa gappa. Sì, sì, vabbè, ma anche questo è di fortuna, Roberto. Eh certo, se tu mi dici facciamo 10 partite con campione del mondo, con uno bravo che gioca professionista, ti fai tanto uscire dalla bagna, però se tu fai uno o due partite, che cosa sono le carte? Non vedi la bravura di... Sì, sì, quello sì. Quello sì, però è anche questione di bravura, ecco. Mi sapevo in base a quello che è in mano. Per esempio, un video c'è un capo un 7 in mano. Se loro mi fanno a me tipo 1000, no? Io non c'entro. E magari quando le carte c'è a fare adesso un full. Quindi, tu mi ha fatto 1400, cosa faccio adesso? Io fondo. Molte volte capita che riesce un poker, 3 capo che mette intero, oppure 2 capo un 7. Quindi, lui ha fatto con un 2. Guarda, ma ci ha preso tutte le cose con un 2. Ma dimmi una cosa, come giocate voi a poker? Con le carte in mano, tutte le 5 carte in mano, o le mettete in terra? Tipo Teresina? No, le carte ce le tu in mano, non avete 5 carte già sul tavolo. Fanno il flop, meglio è stato che fanno il flop, guarda, sto qua a tavolina adesso, guarda, guarda la scena, adesso lo seguo, c'è un curasso, guarda, c'è un video per tavolina, ogni giro, vediamo un po' se mi prende, guarda, questo qua mi prende un mercato che deve dire niente, guarda la scena. Poker, a parte non bisogna giocare a soldi, solo giocando a soldi si vede la qualità di un giocatore, secondo me. A meno che non siamo imbecille va già di una rampa, però se ti fai, se lo fai così, però i team virtuali secondo me non valgono niente, perché poi ti metti a fare lo split, domani ti giochi e non c'è niente, ti fai una giocata grossa. L'ho preso io, mi c'aveva 9 asso, c'avevo cioè 2 asso, l'altro c'aveva 4 e 7, l'ho preso, cioè la rimanenza l'ha presa a lui, c'è il poco che ha messo in più, e poi questo me lo sono preso io. Non c'è l'uso, immagino quante volte che magari hai 2 K e che fa il rilancio. Cioè capita, magari guarda, c'è un 8, un 3, un gira 2-3 in tavola e poi falta il piattino. Ma quindi giocate diversamente, non è il vero poker con le carte in mano, le carte quelle che gira le fai vedere in terra. Non so se la fa vedere le carte in terra. No, ma così non mi piace giocare a me. A me mi piace giocare a poker con le carte, ma le tengo tutte in mano io e tu non lo sai quelle che carte che ho io. Ma le carte del vero, non sta scherzando, no, non è il vero, no. Tu vedi le tue carte, tu, le tenete due altre due carte girate, no? C'è un asso e un tre. Capito? Cosa faccio? Prendo e vado, cal, vado avanti, e loro non so cosa fanno loro. E poi, vedi, mi ha girato adesso un 9, 2, 7, cosa faccio? Niente. Se io deve continuare, io no. E ho fatto due carte e vince anche, prende. Guarda, quindi ho fatto un video questo qua. Ho messo tutto quello che mi aveva. Metti tutto quello che aveva, tanto non so di una vera. Sono distinti. Dimmi una cosa, come fai tu se vuoi iniziare a giocare a questo gioco? Devi avere un credito, come te lo dà? Ah, te l'hanno subito, sì, è su Facebook, registrati. No, no, non me ne ho fatti nulla, solo per curiosità. Bravo, te li danno, ma non vanno, se tu sai giocare, sei bravo, vinci. Io ho preso intanto 9 milioni e passa, quasi 10 milioni, vinci. Ma tu puoi giocare con me, Luca? Aspetta, non posso giocare con te. Cioè, io contro di te posso giocare o per forza a casaccio con altre persone? E certo, è una bella forza. C'è un tavolo da 5 e tavolo da 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tavolo da 9. Sì, ma ammetti che adesso io voglio giocare con te. Io contro di te. Possiamo giocare? Certo, possiamo giocare, perché no? Sembra che ci sia nessuno per lo mezzo. Anche noi possiamo giocare, ma si intromettono, non ho capito. Vabbè, ma tu puoi anche non accettarli a giocarli se vuoi. Chi l'ha detto? Certo non puoi, per forza. Ci siedono. Ti ho detto ci sono tavole, a 5 e tavole a 9. Come pure? Siamo in 9. È fatto pure, veloce. Sono quelli normali e non ne vanno. Non è tre, ma ci apri a gatta. Qua se non muti ti butta fuori subito. C'è tempo di 10 secondi, dai. No, è poco che bisogna essere, non più di 4 persone secondo me. Così qua. Casino la roba. È un casino. Ma la pioggia, poker, ma. Lasciamoli qua. Poker è divertente così, quando per dire ti trovi tra amici, dici, io mettiamoci 10 euro a testa, non di più, in modo, quando finisci sul te ne vai, non di più, perché gente se prende malattie si è rovinato per il gioco dei soldi, assolutamente, ma così magari ti trovi una sera con amici, gente tranquilla, ci diamo limite di 10 euro e boh, 5 euro, credo che, però se giochi con le fisse non vale più il gioco, perché non, come si chiama? Cambiano marina, puoi fare le blefferate che puoi, puoi dire le fessine che vuoi, non c'è credibilità di gioco. Sto iniziando, vabbè. Come? Sto iniziando. Vabbè, ma non c'è un sito per avere le partite gratis? Guarda, adesso non lo so esattamente perché sono cambiati, ma prova a entrare su internet, devi fare, c'è una specie di collegamento tra la gente che c'ha il computer, cose del genere, che fanno tipo un server, grazie Claudio Ronaldo, tipo un server, se ti ritrasmettono una partita, anche se mezzo illegale questo discorso, c'è una specie di controversia per la legge, perché lui si guarda la televisione e ti mette la webcamera in casa e te la ritrasmette l'immagine via internet. E poi ci sono quei siti cinesi, giapponesi, cose del genere, che te la fanno vedere con la pubblicità. Adesso non me li ricordo però come sono. Devi guardare calciogratis.it, mi sembra che sia, cerca quanto dice. Comunque Lu, io ti lascio, vado a vermi la partita, dai, ci sentiamo magari domani, se coincide. Ti auguro una buona giornata anche a te per domani, Claudio, lo stesso, idem, ciao ciao, io interrompo. Ciao Roberto, buona giornata per noi, buon lavoro. Ci sentiamo, dai.